Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'appuntamento del mercoledì, come sapete, dedicato in genere alla scoperta o riscoperta di un personaggio. Vi faccio aspettare un istante la sorpresa, perché nel frattempo è arrivata una notizia triste in redazione, e allora lascio subito per un istante la linea a loro. Breaking news. Sì, buon pomeriggio. Una notizia è stata appena battuta dalle agenzie: è morta l'attrice Elizabeth Taylor. Vi daremo naturalmente gli altri aggiornamenti nel giornale radio delle 15. Del mercoledì è dedicato alla scoperta o riscoperta di un personaggio. Quello di oggi è l'ex allenatore del Genoa, Giampiero Gasperini. Buongiorno Gasperini. Buongiorno. Senti, ho pensato a te, noi ci abbiamo detto tu, no? E quindi ho pensato a te qualche giorno fa, leggendo che Magath, licenziato dallo Schalke il martedì, già la domenica dopo stava sulla panchina del Wolfsburg. Ora, da noi, come si sa, non è permesso, dunque tu te ne resti fermo un giro e riparti solo la prossima stagione. Ti domando, ritieni più giusti i regolamenti italiani o quelli del resto d'Europa? Non è una domanda un po' difficile questa, perché obiettivamente è difficile pensare che fino a una settimana prima alleni una squadra e di colpo ti ritrovi nello stesso campionato a allenare un'altra. Era un'esperienza che già in Italia era stata vissuta da qualche allenatore, poi è stato proprio quello il motivo per cui sono stati cambiati i regolamenti. Probabilmente forse una via di mezzo, nel senso che magari chi è esonerato al girone d'andata può rientrare nel può ripartire al ritorno, per esempio. Questo potrebbe essere un'idea. No, te lo domando perché c'è questa grande disparità di trattamento, a parer mio, e cioè questa grande severità per gli allenatori, che invece non è minimamente applicata ai giocatori. L'esempio più clamoroso è quello di Matri quest'anno. Matri segna per il Cagliari una domenica, la domenica dopo segna per la Juve, addirittura contro il Cagliari. Ora, io sono sempre della tesi che gli allenatori, per quanto bravi e per quanto decisivi in tante cose, comunque in campo non ci vanno. È vero che la tifoseria si affeziona e subisce le giuste suggestioni per un tecnico, ma è anche vero che poi i gol li fanno questi. Cioè, se i cagliaritani hanno sopportato Matri, io credo che sarebbe a maggior ragione più facile, no? Sopportare per un genoano magari che è rimasto affezionato a te, sopportare che Gasperini al giorno di ritorno allena X. Sì, no, ma indubbiamente è chiaro che poi quest'anno ci sono state anche delle anomalie, ci sono stati giocatori che hanno giocato contro tre volte contro la stessa squadra, quindi sotto quell'aspetto va rimesso un po' d'ordine, perché questo mercato sempre aperto, poi che dura tantissimo, poi a un certo punto dal mese di gennaio diventa veramente un problema. Probabilmente bisognerebbe accorciare un po' i tempi del mercato, insomma, altrimenti si crea un po' di confusione. Ho l'impressione anch'io. Senti, anche se insomma, mi sembra che stia un po' bene a tutti, soprattutto i media sul fatto che il mercato aperto ci sguazzano. Io dico i media e dico anche i procuratori. Comunque. Anche i procuratori, tante volte. Sono due belle categorie che non piangono per questi eccessi. Senti, io, a costo di essere banale, ho un allenatore che da 5 anni consecutivi era in piena attività, e che attività, perché insomma partito dalla B è arrivato, insomma, tutto il tuo percorso col Genoa, di cui parliamo dopo. Quando gli capita la disavventura, che è la disavventura tipica del vostro mestiere, è più la sofferenza o è più, dopo un po', magari il senso di rigenerazione? Inizialmente la sofferenza, sicuro, perché di colpo ti vengono a mancare i tempi, i ritmi della giornata stessa. Quando alleni sei totalmente immerso nella tua attività, devi pensare alla tua squadra, devi pensare agli avversari, alla partita della domenica, di quella successiva, veramente devi vedere giocatori, devi pensare agli allenamenti, c'è un tuo staff comunque da dirigere, sei in rapporti con la dirigenza, con i media, e quindi è veramente totalmente calato nella parte. Di colpo la tua giornata diventa vuota. Diventa dove te la devi riorganizzare, ti devi riorganizzare i tempi. Da una parte vorresti fare tantissime cose. Quando sei in attività ci sono dei momenti che pensi a che bello poter fermarsi un attimo, magari qualche settimana, e pensare ad altro, provare a fare ad altro. Sì. Poi di fatto nell'immediato è ancora così, però non sai bene da che parte iniziare, no? Che parte partire. Vorresti fare tante cose e rischi di farne tante non bene. forse è inevitabile. Senti, poi dopo con il passare delle settimane, insomma, un po' alla volta. Per quanto insomma, vedere i giocatori, pensare agli allenamenti sia comunque il chiodo fisso. Rimanga doloroso, certo. Senti, il primo messaggio arrivato da Genova è firmato Andrea, dice: il licenziamento di Gasperini mi ha rattristato come non mai. Per cortesia, si faccia promettere che Gasp non andrà mai al Doria. Questo è il primo messaggio in tempo reale. Sì, beh, c'è anche questa. Cioè. Ma in effetti, insomma, il mio trascorso a Genova è stato talmente intenso e talmente ricco di soddisfazioni, insomma, che uno dei pensieri di molti miei amici tifosi genovani è quello di non, magari già gli darà fastidio vedermi in qualche altra panchina, quella del Doria per loro sarebbe più pesante di sicuro. Almeno non quella. Senti, con l'aiuto di Franco Piantanida, che collabora con me, che è un appassionato di statistiche, insomma, aggiungendo queste purtroppo solo 10 partite di quest'anno, tu sei diventato nel Genoa del dopoguerra l'allenatore del grifo storico, nel senso che hai superato Silvestri, superato Simoni, e restano solo dei miti come Spensley e Garbutt, ma dobbiamo risalire alla notte dei tempi, con più presenze in panchina di te. E allora, io guardando la classifica e facendo la media punti, poi Ballardini 1.35, Gasperini 1.15 di media quest'anno, ma insomma, quindi non differenze abissali, io non credo si possa dire che il problema del Genoa eri tu, così a occhio, No, ma non c'erano, obiettivamente non c'erano i presupposti tecnici ancora, anche perché eravamo all'inizio del campionato, evidentemente ormai non c'era più la soddisfazione da parte del presidente, ma di continuare, quindi aveva voglia di cambiare. Ogni tanto, sai, per me penso che bisogna guardare gli aspetti positivi a volte, sì, non quelli negativi. Essere stato tanto tempo con Prezioso è stato un grande record, non solo per il Genoa, sì, in generale, e quindi bisogna risalire proprio agli albori del calcio per avere altri due scontri simili, ma anche per la particolare predisposizione che aveva magari prima che arrivassi io Prezioso di modificare gli allenatori, cambiare gli allenatori in genere. Quindi bisogna pensare che invece sia stata un record anche quello. C'è dubbio. Questa continuità di lavoro che abbiamo fatto per tanti anni, quest'anno evidentemente non c'erano più le condizioni, soprattutto da parte sua, perché io sono convinto che comunque la squadra era una buona squadra, migliore ad esempio di quella dell'anno passato, e che visto anche le difficoltà di molte squadre in questo campionato avrebbe potuto, certo, ripetere una buona stagione, a patto di avere magari un po' più di pazienza, che come è noto è l'ingrediente, proprio è l'unico ingrediente che nel calcio non si può invocare. Io invece te ne chiedo, e anche gli ascoltatori, un minimo di un minuto e mezzo circa, per sentire come va sulle strade. Torniamo in compagnia di Giampiero Gasperini. Dunque voi, e intendo voi come Genoa, anche se ormai le strade sono divise, voi siete tornati in A lo stesso anno del Napoli, anzi anche lo stesso anno della Juve, ma insomma quello è un altro parametro, nel 2007, tra l'altro al primo tentativo per l'appunto di Gasperini. Oggi il Napoli lotta seriamente per lo scudetto, il Genoa sì e no per l'Europa League, ma la curiosità è un'altra. Ed è pensare che eravate partiti meglio voi nel primo e nel secondo anno di Serie A, per cui sembrava che fosse il Genoa destinato a inserirsi stabilmente nell'elite e addirittura a fare qualche sogno di gloria con un mercato magari diverso, per esempio lo scorso anno. Che cosa è successo? Perché si sono invertiti questi ruoli tra Genoa e Napoli? Beh, intanto il Napoli ha sicuramente lavorato molto bene e quindi c'è da dire anche che il Napoli, forse più del Genoa, può usufruire di risorse importanti che oggi nel panorama del calcio sono determinanti, perché le risorse ad esempio dei diritti televisivi del Napoli sono sicuramente superiori a quelle del Genoa, sono comunque delle risorse che permettono ad esempio di poter mantenere giocatori migliori. E il Napoli negli anni ha venduto mai pezzi migliori e ne ha sempre inseriti di nuovi, e questo chiaramente unito all'ottimo lavoro che ha fatto sia la squadra, l'allenatore, la società. Il Genoa è partito fortissimo, è arrivato 2 anni fa anche ad essere al quarto posto a pari con la Fiorentina nel campionato italiano a fare le coppe. Poi dopo è evidente che quando la politica del Genoa era un'altra, soprattutto finalizzata a valorizzare i giocatori e poi venderli. Credo che nessuna squadra come il Genoa sia stata capace di vendere giocatori alle migliori società italiane, dall'Inter, alla Juventus, al Milan, e questo chiaramente, che sotto aspetto tecnico porta problemi. Non è facile ripetere, ripetersi sempre ad altissimi livelli, però lo standard raggiunto dal Genoa era comunque alto, gratificante, ed era anche così quest'anno. Il Genoa è rimasto, penso che in questi anni ha fatto comunque i migliori campionati di sempre, perlomeno del dopoguerra. No, ma su questo sì, tolta la parentesi di Bagnoli, su questo non c'è dubbio. Però è evidente che questo ci impediva magari di poter migliorare la nostra posizione, anche perché poi migliorare i quarti posti o comunque i primi posti, insomma, diventa poi più difficile. Andare sul podio è più dura. Però allora, se il Napoli ha privilegiato, diciamo, sì, certo, con un bacino di utenza superiore, eccetera, anche se poi il Genoa ha un bacino di utenza anche all'estero che non è affatto da sottovalutare, ma se il Napoli diciamo ha privilegiato l'identità, e cioè solo le mosse che erano davvero necessarie in entrata e in uscita al funzionamento di un progetto, diciamo che il Genoa ha privilegiato la, come dire, la movimentazione, no? E con la movimentazione insomma, mi pare si sia dimostrato una volta di più che poi si rischia di non andare lontano. Però devo dire, dipende, se poi gli obiettivi si modificano, diventano quelli di dover migliorare anno per anno, allora diventa difficile. Se si chiede poi, oltre a vendere i pezzi migliori, si chiedono anche dei risultati immediati, migliori, certo. diventa indubbiamente più difficile. Ma questo credo che insomma, un po' quello che è successo probabilmente quest'anno. C'è stata un'esaltazione dovuta magari a un mercato che si poteva pensare magari nell'idea del presidente di poter raggiungere le migliori squadre italiane, invece probabilmente poi il campionato è un'altra cosa. A luglio si è tutti molto più forti. Ricordo che nelle prime giornate c'era una grossa pressione perché si riteneva il Genoa magari da altissimo livello, e poi dopo si è incominciato a parlare di salvezza o di chiudere più velocemente possibile la stagione. È verissimo. E questo è sempre a seconda di quali obiettivi. Quando io chiedo chiarezza di obiettivi, mi riferisco proprio a queste cose, perché poi si cambiano continuamente da una giornata all'altra. Prima non bastava magari fare cioè una certa media, adesso è ritenuta importante. Certo, è più che sufficiente. Ma vale anche per molte altre squadre. Ma no, certo, adesso stiamo facendo l'esempio del Genoa, però non è certamente una mosca bianca da questo. Bisogna stare attenti all'inizio della stagione, molto spesso un po' male del nostro calcio, che a luglio sono tutte squadre, sembra che tante possano vincere il campionato, dopo quando viene inizia la stagione, poi allora iniziano soprattutto le polemiche, la confusione sotto questi aspetti, si fa poca valutazione magari della campagna acquisti, dei giocatori, della squadra, della potenzialità, e si chiede sempre molto spesso più di quello che è. Questo per gli allenatori iniziano i problemi. È sicuramente l'avversario più subdolo e quello più difficile da combattere. Di quei 10 anni da allenatore delle giovanili della Juventus, 94-2003, non è rimasta la sensazione che negli anni successivi, poi ancora, la Juventus abbia avuto un po' fretta di cederne qualcuno dei tuoi ragazzi? Se vediamo le convocazioni anche che ha fatto Prandelli, insomma, adesso vediamo che magari c'è Cassani, Castaldello, c'è Criscito, Giovincolo, Cerino, oltre lo stesso Marchisio, sono tutti giocatori usciti e tanti altri che sono un procinto magari potrebbe arrivare alla nazionale. Quindi dalla tua covata proprio. Sì, di questi c'è solamente Marchisio che gioca nella Juventus, tanti altri magari hanno fatto per fortuna in altre squadre, sono comunque arrivati alla nazionale. Questo significa che probabilmente erano e sono tra i migliori giocatori italiani, però anche è vero che la Juventus qualche anno fa aveva una rosa di giocatori così importanti che però questo è un altro male un po' comune a tante società, perché sui giovani si vuole molto spesso che siano già pronti a 18 anni, a 20 anni, 21 anni, e poi invece magari vediamo che i giocatori diventano importanti, a parte pochissimi fenomeni, anche quando magari con qualche anno in più, con qualche maturazione in più. Anche in età un po' più matura. Questo molto spesso un po' da tutte le parti si affretta dei settori giovanili che di avere subito dei giocatori di livello importante, quando invece magari hanno bisogno di una maturazione diversa. Senti, a parte i messaggi che poi se ne sono aggiunti altri a quello iniziale del genoano Andrea, che dice dovunque meno che alla Samp. Allora, se adesso posso dire una cosa da Samp, perché questo è giusto, sì. Anche perché io sono stato un avversario acerrimo della Samp, perché quando sono arrivato a Genoa noi eravamo in B, ne ho promossi dalla C, e la Sampdoria invece già faceva le coppe, e per me fu subito un obiettivo quello di cercare di raggiungere e superare la Samp, quindi è stato però devo dire, ho sempre avuto la stima anche dagli avversari, sia dai tifosi che dalla società. Devo dire che anche quando sono stato esonerato ho avuto più gratificazione in questo senso da parte della società che non della quale ho lavorato per tanti anni. Però questo va dato atto. E questa la mettiamo a verbale, che mi sembra significativa. E dato che insomma non mi vergognerei a chiederti a metà marzo, poco dopo metà marzo, dove è un altro anno, in quanti ti hanno cercato, eccetera. Allora, la domanda io la formulerei così, perché è inevitabile. Il tuo è certamente un tipo di calcio all'inglese, che è perfetto per uno stadio come Marassi e per un pubblico come quello del Zena. Allora, in astratto, dove sarebbe riproducibile al meglio, secondo te, un modello come il tuo? In un posto, in più posti? Ma io penso, insomma, di essere... Guarda, io l'ho fatto nelle giovanili e mi è andata bene, insomma, ho avuto i miei risultati e le mie gratificazioni. Poi quando sono andato... Ho iniziato dal Crotone, quindi non da una situazione così blasonata. In Serie C si dice ma è difficile giocare così e vincere i campionati tra i professionisti. Invece abbiamo vinto subito il primo anno, ci siamo andati in B e abbiamo fatto due ottimi campionati anche in B, sfiorando i playoff. Poi quando sono andato a Genova c'era la stessa cosa, Genova, un'altra piazza, non si può giocare in questo modo, in Italia bisogna giocare in modo diverso, attendista, eccetera, c'è queste filosofie un po' diverse. Invece abbiamo vinto il campionato di B e in A ci siamo comunque ripetuti su buoni livelli, quindi io continuo, non ho tantissime convinzioni nel calcio, è sempre tutto molto in dubbio così, però alcune convinzioni sono ferme e quindi sono convinto di poter giocare il mio calcio dovunque, coi giovani, coi grandi, in Serie B, in Serie A e ad altri livelli. Ma mi pare che l'esperienza del Genoa lo abbia dimostrato ampiamente. Noi abbiamo sempre un appuntamento per una cena come si deve su una delle più belle terrazze di Liguria, Bergeggi, no? Sicuramente. E prima o poi lo onoreremo. Sicuramente. Grazie a Gasperini. Grazie a te, un abbraccio. Un abbraccio ricambiato di cuore. Siamo arrivati già all'intervallo, mi pare che ne valesse la pena, le conversazioni del mercoledì. Sono in genere sempre di un certo livello, questa di oggi, soprattutto con quella, soprattutto anche per quella pillolina finale, no? Sulla gratitudine dell'ambiente genovano rispetto all'onore delle armi concesso dai sandoriani, mi è sembrata molto significativa, non in prospettiva, semplicemente così, giusto per rimettere qualche puntino sugli gli argomenti di oggi sono ancora davvero tanti, subito dopo l'aggiornamento dei mercati. Bene, beneficiata Genoano, ex Genoana oggi, perché è appena finita questa conversazione con Giampiero Gasperini su Sky Sport 24. Sta impazzando Milanetto, che insomma il Genoa rappresenta ancora attualmente e tra l'altro sta giocando, a dispetto dell'età, una stagione eccellente. Sono arrivate molte mail, molti messaggi per Gasperini. Il dottor Giovanni Gardin, per esempio, che è un sampdoriano, dice: ma dato che io di lei mi fido ciecamente, ma la Sampdoria si salverà. Mi spiace che non sia più in onda Gasperini, e che però magari lo solleviamo da un vaticinio imbarazzante, perché insomma che la Samp sia messa male davvero mi pare sia un dato oggettivo. Elio scrive da Pescara: un saluto affettuoso a una grande mezzala del Pescara ai tempi d'oro, allenato dal grande Gale, che sarebbe Galeona. È vero che Gasperini è stato una mezzala di quella, proprio di quel Pescara. Poi c'è Luca che si spinge un po' oltre e dice: guardi, per Gasperini alla Juve quella cena che avete combinato la offro io le segnalo, caro Luca, che quella terrazza di Bergeggi è un po' impegnativa dal punto di vista, da tanti punti di vista, però se lei è sempre l'idea, me la faccia sapere. Non, sia Gasperini che io siamo uomini di mondo, per carità, non ci offendiamo sicuro. Ho parlato di Torino, e allora mi sembra giusto impugnare subito, perché qua, ripeto, le notizie e gli argomenti di oggi sono tanti, impugnare subito la mezza pagina dedicata oggi dalla Stampa a questa partita di stasera a Torino. È una serata all'Olimpico contro la SLA, e quindi è una serata benefica che parte dalle 18 con iniziative varie, compreso un concerto di Ron, compreso un'esibizione di Vecchioni, comprese sfilate di altri atleti ed ex calciatori, ma poi il clou evidentemente è questa sfida tra vecchie glorie, con non so, Zidane da una parte e Lippi in panchina e giocatori insomma, che gli juventini non hanno dimenticato, così come al Torino a maggior ragione, visto che vivono un periodo ben più disgraziato del già non felicissimo periodo juventino. A Torino non hanno dimenticato un allenatore come Mondonico, ma giocatori come Ciccio Graziani, come Paolino Pulici, indipendentemente dall'età, come Leo Junior, Claudio Sala, Zaccarelli. Insomma, credo che stasera la nostalgia la farà la padrona a San Siro, però la farà la padrona anche l'aspetto benefico, che è la vera ragione di partecipare a questa serata. Ora, ieri erano già stati staccati oltre 19.000 biglietti, sono certo che stasera, e sarei veramente stupefatto del contrario, che stasera ci sarà il tutto esaurito, sia perché juventini e torinisti hanno un gran bisogno di rifarsi la bocca, ma sia perché la finalità di questa serata mi sembra fuori discussione. Dunque, nazionale. Allora, nazionale, c'è intanto una notizia che arriva da Coverciano, che dà il recupero di Thiago Motta. Thiago Motta è disponibile per Prandelli per la trasferta di venerdì in Slovenia, mentre invece è tornato a casa a Ranocchia per proseguire le cure al ginocchio. Il recupero per lui era davvero impossibile. Allora, un paio di voci che arrivano da Coverciano. Beh, la prima di diritto in questi casi è del neo convocato, ed è il Cesenate Parolo. Per me questo è un sogno, l'ho voluto fin da bambino e ora provo a godermelo un po'. Adesso è stata un'emozione bellissima aver visto il mio nome tra i convocati, e insomma sono strafelice e sono veramente contento. Molte volte un giocatore per dimostrare tutte le sue qualità deve cominciare a credere in se stesso e convincersi anche mentalmente che può essere un giocatore, che ci sono molti giocatori che magari si giocano ma non hanno tanta convinzione. Io l'ho maturata un po' tardi, le convinzioni delle mie capacità, e poi dopo con i risultati e con la passione ho lottato fino alla fine e sono arrivato anche tardi. Molte volte ci sono tanti che arrivano presto, però l'importante è arrivarci in Serie A, e forse arrivandoci con la gavetta che ho fatto in Serie C ti fa capire quanta fatica e quanto sacrificio ci vogliono. Tanto verrebbe da dire meglio tardi che mai, e poi viene anche da aggiungere che Parolo ha anche cominciato in salita la carriera, perché mi risulta che nelle categorie inferiori un giorno subì addirittura un tunnel da Franco Piantanide, quindi questo probabilmente non ha giovato, diciamo, uno sviluppo brillante o precoce della sua carriera. È un pomeriggio di gag questo, anche perché Roberto da Crema rilancia, dice, scrive lui: rilancio, se Gasperini andasse ad allenare il Toro io comprerei anche quella terrazza. Guardi, in realtà sarebbe un'eccellente idea, ma non so se il nostro comune amico Claudio sarebbe così dell'idea. Comunque noi andiamo avanti con adesso che cosa? Intanto ancora una voce azzurra, quella particolarmente commossa del capitano Buffon per ragioni, come dire, collaterali e non strettamente calcistiche. Ho letto un articolo che m'ha veramente commosso. M'ha commosso, che parlava di una scolaresca di bimbi dai 6 agli 8 anni che erano una settimana che erano nella loro aula e che aspettavano che arrivassero i loro genitori a prenderli. Chiaramente i loro genitori erano alle porte della scuola nel momento in cui è arrivato lo tsunami e non li vedranno mai più, no? E questa cosa qua è una cosa che mi ha toccato molto, devo dire la verità. E basta, per cui poi è chiaro, se qualsiasi modalità e qualsiasi modo per poterli aiutare, se ci aiutate voi a trovarlo, io ne sarò ben lieto, ecco. Bravo Buffon. La partita si gioca a Torino stasera, perché lei ha detto San Siro, così mi scrive un ascoltatore. Può darsi che mi sia slittata la frizione. La partita si gioca, a me sembrava di aver detto Olimpico, comunque la partita si gioca certamente all'Olimpico di Torino alle 20:45, ripeto, ma la serata con Ron, con Vecchioni eccetera inizia alle 18. Tutta questa pubblicità che mi permetto solo ed esclusivamente perché questo derby benefico è a favore dei malati di SLA, e quindi il tutto esaurito sarebbe insomma, secondo me è un obiettivo minimo per una serata di questo genere. Mi piacerebbe parlare un po' di Cairo, scrive Millo da Ivrea, che ho avuto il piacere di conoscere. Glielo descrivo rapidamente: uno Zamparini con l'aggravante di non capire una fava di pallone, e questo sarebbe ancora il meno. Non bisognerebbe leggere di questi messaggi, ma ogni tanto sono una tentazione superiore alle mie povere autodifese. Gianluca da Modena, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo fare un intervento in merito alla chiacchierata con Altafini di ieri. Sì. Io penso che il fatto che una volta i goleador segnassero meno rigori è dato anche dal fatto che ne davano meno, forse, di rigori, ovvero c'era molto meno interpretazione del regolamento rispetto adesso. Il braccio alto, il braccio vicino al corpo, cioè, se uno faceva un intervento doveva proprio stendere l'avversario e davano il rigore, per questo forse ne davano meno. E anche il fatto che è cambiato il regolamento rispetto al passaggio indietro del portiere, che una volta si chiudeva l'azione, adesso teoricamente i difensori sono sempre sul chi va là, perché comunque il portiere, non potendo prenderla con le mani, la palla è sempre in gioco. Ascolto per radio e la ringrazio. Grazie a lei Gianluca. Sì, questa può essere una riflessione. Ne ha fatta una molto, ma molto più documentata, Marco Traversi, che ha inviato una lunga mail, che comincia così: dopo l'intervento telefonico odierno, la mail di ieri, che sminuiva il capitale di reti dei cannonieri antichi, che pare giocassero contro gli amici al bar, in favore degli eroi odierni che devono giocare contro difese tremende, non ho resistito. E cosa ha fatto? È andato a prendersi ciclo per ciclo, quinquennio per quinquennio, la media gol a partita, che era cominciata negli anni 50 nei primi anni 50 con 3,87, poi è scesa fino ad arrivare negli anni dal 67 al, all'86, per esempio, la media era 204, 202, 200, poi 210, insomma, a partita, che vuol dire che la difficoltà a far gol era veramente altissima, certamente più alta di quella di oggi. E seguivano riflessioni molto interessanti su ciascuno di questi periodi storici. Allora, c'è ancora un ascoltatore, poi dopo vi leggerò una lettera che ci ha fatto come redazione molto piacere ricevere da parte dell'ex allenatore della Cremonese Roberto Venturato. Adesso sentiamo Stefano da Parma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, allora io devo dire, amica, su quella che è stata la prima domanda Gasperini, cioè quella a proposito dell'opportunità che gli allenatori nella stessa stagione giochino, cioè scusi, allenino nella, sì, squadre diverse. Ecco, perché lei ha citato il caso paradossale di Matri, che una settimana ha segnato per il Cagliari e una contro il Cagliari. Però per esempio ci sono anche casi come Lerda, che ha due partite, viene licenziato, viene richiamato dopo due partite, dopo che era andato Papadopoulos. Ecco, allora secondo me i nostri presidenti già sbagliano abbastanza, almeno diamogli l'opportunità di poter richiamare l'allenatore, se magari Lerda si fosse accasato con qualcun altro, evidentemente non sarebbe stato possibile correggere uno dei tanti errori. Ma errori, facciamoli risparmiare un pochino questi sventurati, in questo senso, no? Perché lei capisce bene che oggi un allenatore come minimo è un grande manager, no? Di un'azienda, cerco un parallelo che ci stia. Lei, se lei è vero che il calcio è un'azienda, come dire, curiosa, eh? Poi ciascuno ci aggiunge l'aggettivo che vuole, a me in certi casi viene in mente l'aggettivo manicomiale, ma lei se l'immagina una grande azienda, un'azienda comunque che licenzia evidentemente per incapacità il suo general manager, il suo amministratore delegato, e poi a distanza di due settimane o di due mesi, come in altri casi, se lo riprende indietro. Perché? Perché è ancora meno peggio di quello che ha preso. Ma dai, su. La rubrica di Nicola Filippone, che cosa è accaduto un certo 23 marzo. Sembra ieri. Vi parlo dalla postazione dalla quale trasmettiamo normalmente tutto il calcio minuto per minuto e non dalla postazione degli spogliatoi. Perché? Perché le porte degli spogliatoi sono ancora chiuse. 23 marzo 1980. Il grande scandalo del calcio scommesse esplode alle 5 di una domenica pomeriggio come tante, quando, al termine delle partite, la Guardia di Finanza fa irruzione negli spogliatoi degli stadi di Roma, Milano, Pescara, Avellino, Palermo e Genova, per arrestare, in un clima di incredulità generale, alcuni tra i protagonisti dei campionati di A e B. Una vicenda che sconvolge il calcio italiano a tre mesi dalla fase finale degli europei, in programma proprio in Italia, e che avrà un doppio epilogo: l'assoluzione da parte della magistratura ordinaria e il pugno di ferro della giustizia sportiva, con penalizzazioni, la retrocessione di Lazio e Milan e squalifiche per complessivi 51 anni. La lettera di cui ho parlato prima, le scrivo, ripeto, Roberto Venturato, ex allenatore alla Cremonese, le scrivo dopo aver ascoltato, come spesso mi capita in auto, la sua trasmissione del 14 marzo. Con grande meraviglia sono stato citato per un fatto avvenuto durante il campionato di prima divisione Lega Pro 2009-2010, aggiunta di una giornata di squalifica per aver comunicato durante la partita Cremonese-Lumezzane dalla tribuna tramite telefono con la panchina per dare indicazioni in merito alla gara in oggetto. La ringrazio per essere stato uno dei pochi giornalisti che ha voluto pubblicamente a livello nazionale far notare la grande disparità di trattamento rispetto a una regola federale che dovrebbe essere uguale per tutti, rispettata in base probabilmente all'importanza invece della persona che la trasgredisce. Mazzarri ha semplicemente fatto quello che ho fatto anch'io, come lo stesso Mourinho qualche mese prima, di fronte a milioni di persone, ripresi e commentati ripetutamente dalle immagini di Sky, mentre trasgredivano una regola che dovrebbe essere uguale per tutti gli allenatori indipendentemente dalla categoria. Per questo avrebbero dovuto anche loro essere squalificati almeno per un'altra giornata, come è accaduto al sottoscritto. La mia mail è solo un ringraziamento sincero per l'attenzione posta rispetto a una ingiustizia sportiva verificatosi durante il campionato scorso che mi ha profondamente ferito e addolorato. Con grande stima, Roberto Venturato, ex allenatore della Cremonese. Poi c'è un'altra lettera che è appena arrivata e che esula dal mondo strettamente sportivo, ma che mi fa molto piacere leggere tra poco. Prima ascolterei un appassionato ricordo di Milano, in vista del derby da parte di Ronaldo. Sì, veramente la gente a Milano, in generale in Italia, mi vogliono molto bene. Ho sentito un affetto, un rispetto molto molto grande. Io direi che gli italiani mi hanno visto crescere, no? Ho passato quasi 7 anni della mia vita in Italia imparando, imparando come giocatore, come uomo, come tutto. Perciò credo che si identificano con me. Ci sono tanti ricordi. Con l'Inter sicuramente quel 3-0 con Pallonetto, no? Con Milan è rimasto quella sconfitta, però ho fatto un gol. Ah beh, certo, l'italiano non l'ha dimenticato. Simone ha chiamato dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno Garantini. Dica. Innanzitutto la ringrazio, in quanto essendo io genuano al midollo ho avuto un estremo piacere ad ascoltare gli interventi di mister Gasperini. E detto questo, vorrei richiamare un attimo l'attenzione sul discorso arbitraggi, nel senso che è vero che la fallibilità degli arbitri è dimostrata ampiamente, no? Però quello che più mi dispiace è notare atteggiamenti che non aiutano gli arbitri da parte di giocatori professionisti che dovrebbero essere di buon esempio. Vedi l'episodio del gol di Vivaio aggiustato con la mano domenica scorsa, ma questo senza polemizzare, io non ce l'ho con l'arbitro, può sbagliare e va bene così, però io ho sempre davanti il gesto di De Canio che ha fermato il pallone con le mani, è quello il calcio che mi piacerebbe vedere. Grazie a lei Simone. Sì, poi le cose si aggiustano sempre, perché quando soprattutto non ci sono interessi gravi di classifica, non so se lei ha, ovviamente ha visto, come abbiamo visto tutti, Di Vago si aggiusta il pallone con le mani, poi magari non ha notato alla stessa maniera le modalità del pareggio del Genoa. Vado a vedere dove salta indisturbato Dainelli sulla punizione dipinta di Milanetto e così poi vediamo. Vedrà che probabilmente qualcuno al Bologna si è pentito di quel fallo di mano e la partita è finita. La partita è continuata così, poi non so se sia anche finita alla stessa maniera, ma che sia continuata con un gol riparatorio, insomma, dopo tanti anni che vedo calcio ho abbastanza pochi dubbi. Fuori tema, scrive Sandro Acinapura. Fuori tema, ma so che con lei trovo un ascoltatore sensibile a queste problematiche. Il governo, dopo una mobilitazione senza precedenti, ha reintegrato il FUS 2011 a 428 milioni di euro dai 231 di partenza, ed è finalmente una bella notizia perché gli italiani potranno ancora ascoltare Verdi non solo alla Scala pagando 200 euro di biglietto, ma anche a Ravenna, Genova, Lugo, a Perugia e nei tanti teatri minori italiani. Nel mio piccolo, visto che suono in un'orchestra sinfonica e di questo lavoro ci vivo, è una gran bella notizia dopo mesi di prospettive nerissime. Grazie a Radio 24 che del reintegro al FUS ha fatto nell'ultimo mese uno dei suoi cavalli di battaglia. Gli unici, ma tra i pochi a capire, grazie comunque Sandro, che cultura è ovviamente ricchezza di spirito e pensiero, e quindi consapevolezza e libertà, ma anche ricchezza economico, lavoro e futuro. Spero non me ne voglia se ho scelto lei tra tutti coloro che ascolto in Radio 24 per condividere la mia gioia. Caro Sandro, il regalo l'ha fatto lei a me, evidentemente, la ringrazio di cuore per questo. Daniele ha chiamato dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno, dica. Intanto lo ringrazio, poi volevo segnalare l'articolo del 23, si parla sempre di calo di spettatori. Ieri mattina ho preso la gazzetta e ho letto sopra in un articolo, con l'inizio di pagina, che diceva medio spettatori Inter 65.854. Sono impressionato, voglio solo parlare con tutto qua. La prima in classifica in genere il pubblico ce l'ha, non lo perde sicuro, anzi semmai lo aumenta. Poi non so se questo dato era il dato dell'ultima partita, come immagino, o è un dato consolidato invece, però ci sono altri segnali ben diversi, e comunque il pubblico è indubbio che continua a calare. Che poi cresca in una piazza è positivo, ma se cala in altre 9 è positivo un po' meno. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento è per domani.